10. Hola, hola, hola. Hola, c'è qualcuno qua? Attenzione, 10. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. Qualcuno qua? Attenzione, 10. C'è qualcuno qua? Sicur 10? Hola, hola. Hola, c'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. CQ canale 10. CQ 10. Ora c'è qualcuno. Nessuno, Tino, come mi stai ascoltando? Buonasera. Buona, buona. Bene, Gianni. Avanti, avanti, buonasera. Ciao belli, buonasera. Mi sentite? A voglia, ciao Luca. Ciao Tino e ciao Gianni. Ciao Luca, ciao, mi sentito. Mi sono arrivata ora, cazzo, ho mal di denti. E come va? Abbiamo messo altri impianti già, ieri. Ah, te l'hanno messi tutti? Quanto te l'hanno messo sopra? Impianti? Sette. Ma devo mettere l'ottavo. Sette sotto? Sette in tutto. Ah, ho capito. E poi mi metto il subwoofer. Lo stereo lo sto comprando di quelli buoni. Vabbè, di quelli tipo tavole. Una cosa che va a fare, la spesa devi fare bene. Ah, 10.000, dai già. Non ti ha preso molto. È stato un mese. Vabbè, siamo partiti da 7.000. Poi da 8.500. Ah, sull'altro impianto, per essere pari, mi costa dai 1.500 ai 1.800 euro. Vabbè. Ma si vede, recepirai, fatelo, buonanotte. Di loro ci sono già, a Puglia, ci sono, già, fatto così, ormai, sono già a buon punto. Adesso lunedì, il 10 ho fatto due estrazioni, e scusate me ne levo anche i punti, c'ho un bel di punti in bocca. Lo posso capire, quando li rubavi ti dai. Sì, mozzarella è la cosa più morbida. Poi vabbè, la banana che è morbida lo stesso. Brodo, budini, cose così. Vediti la crema di budini che è un bel buono. Quella che no, che è un buono. Vabbè, comunque, là già passa lì. Un paio di settimane sei a posto. Avanti, Tino, poi fa già per Cristian. No, ma niente, io sto ascoltando e sto guardando alcuni filmati su internet. Ripeto, per una risata da solo anche. No, io ho si lascia cantando e ho smesso adesso, non voglio più gare. Sto facendo dei duetti e poi ho staccato e acceso qua. Vi è arrivato quel video di quel tipo 33enne, 33, 34 anni, che si è messo a fuoco con la benzina? No. Aspetta, se ce l'ho ancora. Ha recuperato 70% di ustioni, a quanto si dice, hanno cercato di spegnerlo con degli estintori, non ce l'hanno fatta. Dopo un po', l'hanno spento e si è seduto una panchina e non esce due tunci, cioè non ha detto né aia, niente, stava soffrendo in silenzio. C'è anche quello il telefono, vediamo se ce l'ho ancora. Ma dove è Sassari? Non lo sai dove è? No, perché non lo so, vabbè. Aspetta. Avanti Cristian. Cristian è morto. Aspetta 2 secondi, già arrivo. Te lo mando già. Mandalo, io voglio vedere. Ho mandato anche a Luca, beh. Ma chi è entrato? Cristian? Ciao Cristian, allora già l'hai detto, ti ho sentito così in lontananza. Che cosa? Ma come segnale non ci sei, lo sai, sei 9.20. Sì, veramente, sei 9.20. Essendo qua in zona, può anche entrare a devi toccare 60, Ma ho capito. Sì. A parte il rumore casalinghi, dai. Gianni, scioccato, sì. Allora, la panchina non l'ho visto, sì. Cos'è che non hai visto? Tu hai detto che se sei seduto nella panchina si caglia giù. Ah, no, sono voci del popolo quelle, così ho sentito. Carabinieri, ma non mi sembra che sia il carabinieri di Sassari. Ma l'ho visto con che freddezza ha continuato a lasciarsi bruciare. Ma poi con gli istintori non riuscivano a spegnere, l'acqua ci voleva, sicuramente con l'acqua l'avrebbero spento. E l'ho già visto, ma morto è. Lo schiumoggio non fa niente. No, mi hanno detto, cioè ho sentito poc'anzi che è ricoverato al 70% di ustioni, però non so dove sia, capito? Ma non è a Sassari quello, Ma sai il continente? Perché l'ho visto che l'ha messo Gianni Azzone, quello che fa spettacolo da Colorado. Ho capito, vabbè. Sì, comunque poveraccio, chissà quanto è sofferto. Ma se l'ha piccata lui, se l'ha piccata lui un po'. Sì, a quanto dico sì. Io la sai cosa ci voleva, lo schiumogeno, perché se era benzina ci vuole lo schiumogeno per spegnere, ci vogliono lo schiumogeno più dalle vigili del fuoco. Avevo, aspetta, c'ho il cane qua, vai via. Lui è pisante, creduto, si è messo in piedi e mi ha abbracciato Gianni, ma è più alto di me quasi. Già l'ho visto che bellottece, c'è lo che le porta a quattro ore. È bellottece. Quanto c'ha adesso? Si è fatto 9 mesi. È un cucciolone ancora. Sì, è un cucciolone, ma come vede su la sedia, si mette le zampette sopra e poi mi ha fatto un colpo al suo, sono pesanti, sono cari pesanti, purtroppo è dalla stanza loro. Io ho un amico che vuole il brieto, praticamente quando mi salta male sono buttato in terra. Allora. Ho dato delle patatine, sono casino. Ma è patate al cane? No, vabbè, io lo faccio entrare a sera, sono io, giusto per fare un po' di coccole, perché non ho bevuto tutto il giorno, poi a dormire fuori. A dormire da fuori? Allora, la sua cuccia, no? Io c'entro anche le quagliette, che c'è un veranda, c'è la veranda chiusa, c'ho le quaglie, però di notte le metto dentro, perché non vedi il break, si cancareggia, non so, le trovo congelate. Lo so, però io non... Ce l'avevo io il cane in casa quando ero la feroce, avevo il cocker. Questa è già una stanza un po' troppo importante per tenerlo qua, perché poi non mi vede, magari inizia a morsicare le sedie, vuole entrare, vuole essere sempre attaccato a me, quindi magari non lo trovo in camera da letto poi anche. Lo so. Va bene, grave quello lì, in effetti in casa non è che va bene, siccome ci sono quelli che hanno il pastore tedesco in casa, quindi va, è un bel peloso, lascia un po' di figli, il mio tanto quanto, al pelo corto. È bello il canedettino, molto bello, invece è troppo rotto vai per rotta vaglia, butta la vaglia. È molto bello, molto, mi piace un sacco quel cane, meglio del pitbull, non c'è paragone qua. No, poi è ducere con adesso, con i bambini, con la gente, con i cani addirittura. Ci sono molti cani che se lo guardano, si mettono a bagliare, lui prende, si siede e si riguarda, come per dire, ma cosa sto facendo di male? Che tocco. No, perché l'ho abituato io, no? Lo tiro io, lo seduto, lui si siede e si riguarda. Poi giustamente se si avvicina, allora anche lui si mette sulla difensiva, però non va a rompere le scatole, capito? Non è invadente, dai. Esatto, non è invadente. Ho trovato uno al parco già, un cagnolino piccolissimo, ma così arrogante, lui si è seduto, se l'ha guardato, e il padrone mi dice, guarda, non lo sciolgo perché non so che fine fa. Ma il parchetto che c'è via Fra? Il parco che c'è qua a Sant'Orsola. Ah, ce n'è anche uno via Fra, lo sapete. Se va bene, non lo so, in via Fratti non sono andato, lì non c'è la forestale. E lì c'è praticamente, visto dove c'è l'edicola di fronte, c'è un po' più avanti, c'è un cancello, si entra dentro, c'è il parco attrezzato, ci sono le panchine per sedervi, ci sono i posti per buttare se fai bisogni, per buttarci bisogni, c'è l'acqua per bere i cani. Davvero, non sono andato lì, non sapevo. E dove rimane? Di fronte all'edicola? Guardi, di fronte all'edicola un po' più su c'è un cancello centrale. Mettono nella forestale, scusa. Sì, ma una parte l'hanno fatta, capito, l'hanno fatta a parte, sì, la forestale, c'è ci sono anche dei locali più su, però questa parte qua l'hanno adibita per i cani, capito? L'ho fatto un parco per i cani. Io non l'ho comportato dalla volta che questo qui è stato con l'ufficio, mi ha detto così è maschio, sì. E allora guarda che qua sono tutte femmine, l'unico maschio è lui, gli ho detto se è, se me ne devo andare io perché se si aggiungono. No, no, già è bravo il mio, già è bravo il mio, cazzo l'ha fatto scendere e dai, sono andato a Cabrighe, si sa, poi quello lì stava sempre a fianco, gli faccio e dai, si stava girando, capito? Quindi alla fine me ne sono dovuto andare io per evitare che sotto accaparrato. Vabbè, no, vabbè, ma in ogni caso lo dovrei tenere a guinzaglio, non è che io lo stesso quando lo porto lo tengo a guinzaglio. Lo lascio sciolto quando non c'è nessuno, ma se vedo una vicinanza di un altro cane, lo chiamo, lo leggo. No, no, lì stanno tutti slegati, tutti quanti. E come tu arrivi, il tuo linguizzario, loro vanno a conoscerlo, eccetera, eccetera, capito? Si avvicinano gli altri cani, fanno conoscenza, naturalmente non ci devono essere cani maschi, perché se ci sono altri cani maschi, lo sai com'è, non si si aggiuffa. Se sono altre femmine ci gioca a terra, giocava, correva, tornava a casa crepato, lo metteva, lo portava a casa e cominciava a bere tutta l'acqua della cioccola e poi si coricava e si dormiva. Non lo so, vabbè, io non lo so, però credo che si azzuffino due maschi quando c'è qualche cagnetta in calore. No, no, i maschi sempre si azzuffano quando devono misurare la competizione, capito? Devono marcare il territorio loro, capito? E hanno sempre questo asti tra maschi e cani. Boh, perché io sono un fratesco maschio, però vabbè, diciamo che si conoscono da proprio cuccioli, quindi hanno sempre giocato assieme e tuttora stanno giocando, però nello stesso tempo stanno andando e alzando di livello, praticamente, capito? E occhio che magari con un manco te lo aspetti, capito? Dovrebbe provare. Sono loro che stanno facendo la ditta, non io. Vai Luca. Sì, va. I cani sono un impegno, vabbè, per chi ha la campagna un po' meno, va. Per chi ha la campagna è libero, fa ciò che vuole, fa i bisogni. Quello che ce l'ha in casa è un impegno grosso, anche piccolo che sia grande, ma penso anche il cane grande sia molto impegnativo. Beh, il grande specialmente se è peloso, ti riempie la casa di piedi, tipo il pastore tedeschi. C'è uno che ce l'ha in casa, il pastore tedesco, e mi ha detto, cazzo, no, ogni volta che esco mi porto la spatola appresso, per spatolarla che in casa mi faccio un cazzo. Vabbè, io ho sempre avuto cani grandi, io ho avuto sempre il pastore tedesco, ho avuto il maremmano. Questa l'ho preso questo qua perché mi è andato a sparire il piccolo, diciamo, quindi per non lasciare il pastore tedesco femmina da sola, allora c'è stata questa occasione e mi ha comprato questo. Ah, te l'hanno venduto, pensavo te l'avessero regalato. Diciamo che agli altri lo stavano dando un prezzo, a me mi hanno dato un po' meno perché avevo fatto lo sbrimamento, quindi insomma gliel'ho pagato, gli ho dato 100 euro, agli altri lo stavano dando 400. Non è pagato chissà quanto, 100 euro è regalato, è come se fosse regalato. Vabbè, poi tu hai pensato a fare tutti i vaccini. Sì, poi giustamente adesso gli ho fatto tutti i vaccini, gli ho fatto anche il vaccino cosa per le svaniosi, perché qua in campagna purtroppo in estate ci sono troppe zanzare, quindi ho dovuto fare la puntura. Io rimetto quelle gocce che vanno bene per le svaniosi. Sì, ci ho provato anche io, ma senza alcun risultato, Gianni. Io non solo le gocce, anche il collare, però non hanno punto e niente. Invece adesso speriamo che con questa cura non faccia quell'effetto lì. Ma questi che c'hai? No, questi che ho le perdiamo. Allora, tutti gli altri che ho avuto, la maggior parte ne sono morti di smaia. Perché in Campania, basta che ci sia una botta d'acqua, qualche cosa così, anche da insetti. Diciamo che sono le zanzare e i pappattacci che cose che contagiano anche le zanzare smaniose. È una zanzara che morsica, tra virgolette, un cane che ha l'esmania lì se lo trattiene, incuba nella zanzara, se morsica il tuo lo contagia e così via. Solo che se è controllato ogni 6 mesi è curabile la cosa, praticamente il cane non muore. A me me lo avevano già per spacciato ogni volta che andavo a fare il vaccino in Balevaria, poi insomma si ammalava il cane, quindi ne sono morti parecchi cani così, soprattutto quelli di caccia. Perché in campagna sono soggetti, capito? Sono soggetti. Luca! Se con questo un'orata o un computer? Cosa? Ho detto 2 secondi che sto dando un'orata a un computer, non un'occhiata, un'orata. Non avevo capito male io allora, tu sei niente. Quindi se può comane, la spigola gli devi dare. Mi ha attaccato. È vero, ascolto. Sono entrato a salutare. Ehi ragazzi, vai, vi devo lasciare. Ciao Natà, che devo preparare il rancio. Ci sentiamo più tardi nel caso, vai. Sì, ciao Tito, ciao. Buona serata, vai. Avanti. Ciao T. Avanti, Tatarino. Cosa? Stai ascoltando sta? Ma vuoi che ti faccia schiattare? Eh? Aspetta che saluto a Tino. A Tino. Ciao Tino. Io te l'ho detto che tu sei cuocuomane. Ehi, ciao a tutti, ciao. Lo tu sai? È vero. Però tu sei a casa di mamma tua, perché mi stai arrivando forte. Sì, e beh, siamo vicini, attaccati. Oh, via. Un casino, ragazzi. Che ne so. Ma già sei in radio. Di solito ci sei mai a quest'ora. Già ci sono. Ascoltando sto, non è che entro molto io. Anche perché ho questa antenna tutta messa male. No, a Gianni stavo dicendo una tale, lo so tu già entri spesso, dai. A Gianni. Ho detto già, qual è questo la sia la... come si chiama? La compiù, bah, sì, la compiù. Ciao mia, baracchina. Ma le robe so. E allora? Certo, allora. Io l'ho portato nel careggio, non me l'ha fatta l'orario. Me l'ha fatta l'orario, non me ne sono reso conto che ore ero. Al cane l'hai portato? No, e non si è manco lamentato, devo scegliere il cazzo. Allora, e se non ti porta la tua compagna, no? No, che sta partecipando a una gara di calcio. Ah, infatti lo sentivo, si sentiva qualcuno cantare. Eia. Andava. Ebbene, Natale, arrivavo a antenna quando decidi di piazzarla. Tanto se ti serve una mano ci organizziamo, un sabato ti diamo una mano, veniamo una domenica con Antonio. E adesso vediamo un po' se fa un po' di tempo come si deve, là, per la piazza. Sennò è un macello. Non ha giù manco gana e biazzarla, figureggiati. Puoi ridere già, allora ci sono le crocchette che compra Andrea, quelle della Purina, vabbè, non mi ricordo esattamente il nome. E ci sono 2 qualità in questa busta di... ci sono quelle rotonde che rimangono più morbide e le altre un po' più croccanti. Beh, cosa fa lì? Si sceglie quelle... che taglio ce li ha i denti, no che non ce li ha. Poi gli piacciono più quelle più morbide, sono più... sono più gustose. E le altre le lascia, quelle più croccanti. Lo mio ridaga a tutti, a chi crocchette non ne vuol vedere, manco in fotografia. Ma te ce le mangia, si sa fame. E vi dico, i sugari di tu la senza maglia perché si rimangia i crocchetti, Ma guarda, si do qua che non li mangia. Cioè, io gli do altro, cioè non gli do altro, tipo la mattina papà non gliene do, capito? mattina zero, perché sta troppo ingrassando, perché la sua che è sterilizzata tende a ingrassare, no? E la mattina non le do nulla. Come si dice? Dici no, vediamo come ti diventa, una bettoniera diventa. Se la gara ci mangia più crocchette, infatti così fate. Un attimo, dai, io sto andando via, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, grazie per l'occasione, ci sentiamo che tardi, dai, ciao ciao. Ciao già, ciao. Ciao già. Vabbè Lu, me ne vado pure io, dai. Che fra un po' mi curico a chi non ha giugano, è vero. Non mi sento bene in questi giorni.